Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. Vi confesso che per me Zanzibar è sempre stata soprattutto una cosa, la terra, la madre patria di Freddie Mercury, la voce dei Queen, una delle voci più conosciute, note, amate del rock e del pop mondiale e devo dire anche mio idolo di gioventù. The Overtime, il festival della cultura sportiva che si tiene ormai da qualche anno a Macerata, mi ha fatto incrociare un bell'articolo pubblicato sul blog del nostro ospite che fra poco vi presenterò, che mi ha aiutato a vedere Zanzibar in un altro modo, quest'isola che oggi è territorio della Tanzania, quindi stiamo parlando dell'Africa orientale, è anche un piccolo laboratorio di una storia che mette insieme calcio, politica e cultura. E allora ne voglio subito parlare proprio col nostro ospite, che per questo articolo tra l'altro ha ricevuto proprio durante Overtime un prestigioso riconoscimento. Benvenuto ad Olimpia, Simone Pierotti. Hey, ciao Dario, un saluto a te e ovviamente a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport, Simone, e direi che la storia che racconti in questo bell'articolo, tra l'altro pubblicato anche sul tuo blog, ben si attaglia ad Olimpia, perché svela tante verità di come il calcio si propaghi a tutte le latitudini e in particolare, devo dire, anche in quest'isola straordinaria, splendida e misteriosa, in cui il calcio arriva di fatto con i coloni inglesi, no? Siamo nella metà dell'Ottocento, se non sbaglio, e arriva anche un pallone rotondo insieme agli inglesi. Sì, esatto. Intanto una piccola premessa: questo articolo nasce a seguito di una mia vacanza a Zanzibar, dove un giorno, facendo un'escursione, siamo passati di fianco allo stadio nazionale. E mi colpì appunto l'aspetto di questo stadio, soprattutto se messo a contrasto con purtroppo la fatiscenza dell'ambiente urbano circostante, perché ovviamente sono quasi tutte delle posticce baraccopoli. Per cui sono andato un po' a investigare su questi aspetti del calcio a Zanzibar. Peraltro ogni volta che vado in vacanza cerco sempre di trovare un po' le connessioni sportive, ma anche sociali, culturali e politiche di ciascuna destinazione. E appunto sono venuto a scoprire la storia del calcio a Zanzibar, che è arrivato, come stavi dicendo te, grazie a degli inglesi, non tanto diplomatici quanto delle semplici persone, perché più o meno viene attestato nel 1880 l'arrivo del calcio a Zanzibar. Erano dei dipendenti di un'agenzia di telecomunicazioni che erano arrivati sul posto per mettere sul posto i cablaggi, no? Per mettere in contatto questa straordinaria isola con il continente europeo, e appunto loro nel passatempo, no, fra un lavoro e l'altro, si dilettavano con palline e palloni, perché al di là del calcio c'era anche il cricket, però ovviamente è stato poi il calcio quello che ha attecchito maggiormente nell'arcipelago di Zanzibar, perché poi noi informalmente per Zanzibar ci si riferisce all'isola dove appunto è nato anche Freddie Mercury, ma in realtà è il nome dell'arcipelago, perché poi le due isole principali sono Unguja, quella che appunto viene chiamata informalmente Zanzibar, e quella di Pemba. Ecco Simone, di fatto si crea subito una dicotomia, no? Nel senso che il pallone entusiasma tutti e si comincia a giocare, che bello che bello, poi in realtà esiste una passione calcistica declinabile all'inglese e una passione calcistica che viene invece declinata dai locali, no? Esatto, perché ovviamente il pallone si diffonde in quegli ambienti più vicini ai colonizzatori europei, in particolare c'è ad esempio una scuola che ha delle forti connotazioni cattoliche in una zona dove invece è ben radicato l'Islam, perché Zanzibar è stata un possedimento portoghese e poi anche arabo, infatti all'epoca, pur essendo un protettorato britannico, c'era comunque il sultano della famiglia omanita, e quindi diciamo che c'era anche questa forte dicotomia dal punto di vista religioso, oltre che sociale e etnico. Quindi appunto inizialmente il calcio rimane confinato fra le strutture che in qualche modo sono legate alla dominazione europea. Poi però in realtà questo diciamo avviene negli anni fra le due guerre mondiali, anche i locali iniziano in qualche modo a organizzarsi, addirittura insomma ci sono degli interi villaggi che sono rappresentati da alcune squadre, e qui si vede proprio anche il forte elemento catalizzatore del calcio, perché mette un po' d'accordo tutti, persone che nella vita di tutti i giorni fanno i mestieri più disparati, dal fruttivendolo piuttosto che al pescatore, e che però appunto vengono in qualche modo uniti da questa passione per questa sfera, no? che rotola sui campi. E dunque abbiamo anche appunto lo sviluppo del calcio sia tra diciamo i bianchi che poi anche però i neri locali. Pallone che diventa, Simone, col trascorrere degli anni e delle generazioni, anche lo strumento attraverso cui Zanzibar rivendica in qualche modo anche la propria indipendenza dalla Tanzania, una volta che alla Tanzania stessa viene annessa, no? Esatto, intanto diamo subito una data importante nella storia di Zanzibar, non solo dal punto di vista sportivo. Nel 1926 nasce la Federazione Calcistica di Zanzibar e soprattutto nasce anche il primo campionato nazionale, quindi diciamo che il calcio è ben presente anche appunto nella popolazione locale assai prima della nascita della Tanzania, che poi questa invece avviene quasi 40 anni dopo, perché è del 1964 l'unione dei due ex protettorati britannici, Zanzibar e Tanganyika, e appunto le prime tre lettere Tan e Zan formano appunto la Tanzania, con conseguente anche nascita di un unico governo e anche di un'unica federazione calcistica. Però come appunto ho avuto modo di investigare in questa mia ricerca, in realtà la federazione calcistica di Zanzibar e il campionato nazionale sono sopravvissuti anche all'unificazione con la Tanganyika, quindi effettivamente ha portato avanti i desideri, le rivendicazioni di indipendenza dal nuovo Stato. Beh, direi che siamo arrivati già a un punto cruciale della nostra storia, perché adesso vedremo come l'anima zanzibarina del football tanzaniano sopravvive ancora oggi. Simone Pierotti, ti chiedo un attimo di pausa, così come lo chiedo agli ascoltatori, ci ritroviamo ancora a Olimpia fra pochissimo. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategia monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog. Da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13, su Radio 24. Olimpia, miti e verità dello sport. Zanzibar, isola leggendaria dell'Africa orientale, patria, terra di nascita del divino per me ma per molti altri, Freddie Mercury. Ma oggi qua a Olimpia vi stiamo raccontando una storia che ce la fa scoprire anche come terra di un calcio lontano da noi nelle modalità di sviluppo, ma vicinissimo per passione e per significati. Lo stiamo facendo con Simone Pierotti, recente vincitore dell'importante riconoscimento al Festival della Cultura Sportiva Overtime di Macerata per il miglior articolo di tema sportivo calcistico pubblicato su internet. Beh, Simone, hai dedicato proprio il tuo articolo alla storia del calcio a Zanzibar. Stavamo dicendo delle connessioni tra il pallone e la politica. Ebbene, c'è anche una fase particolare dello sviluppo di questo rapporto in cui entra in scena addirittura la Cina, che avanza le proprie attenzioni, le proprie pretese sull'economia della regione. Ebbene, anche in questo caso si sviluppa una vera e propria diplomazia del pallone, se non sbaglio. Esatto, sì, in realtà nei testi accademici si parla ancora più precisamente di diplomazia degli stadi. Perché? Perché negli anni della decolonizzazione, quando cioè i paesi africani via via stavano diventando indipendenti, si stanno disaffrancando, no, dal colonialismo europeo, interviene sull'Atlante dell'Africa la Cina, aiutando la costruzione di varie infrastrutture e soprattutto aiuta la costruzione di numerosi stadi. Il primo è quello di Dar es Salaam nel 1969, ma il secondo, e poi in realtà qui Dar es Salaam fu in realtà un ampliamento, non era proprio una costruzione ex novo, quella che invece avviene nel 1970 a Zanzibar, dove appunto viene costruito lo stadio nazionale, lo stadio Aman, che ha una capienza di 15.000 posti, e visto poi dal vero, che appunto io l'ho ammirato andando sul posto, effettivamente è un'ottima struttura, soprattutto se messa a paragone con l'ambiente urbano che lo circonda. E tra l'altro poi questo stadio è stato costruito ex novo nel 1970 e poi è stato anche oggetto di interventi di riqualificazione pochissimo tempo fa, nel 2010, sempre da parte di aziende cinesi. Su questo sfondo, o forse anche nel ruolo principale sul palcoscenico, c'è la richiesta che si ripete più volte nella storia del calcio zanzibarino di affiliazione alla FIFA, no? Perché abbiamo detto che Zanzibar di fatto ora è territorio della Tanzania, quindi è una regione in una nazione, semplificando grossolanamente, ma per capirci. E più volte in questi anni Zanzibar ha avanzato la richiesta di un riconoscimento ufficiale, no? Sì, prima parlavo del 1926, no, come data chiave nella storia del calcio zanzibarino con la nascita della Federcalcio. Ebbene, nel 2002 abbiamo un altro punto di snodo fondamentale, perché la Federazione Calcistica di Zanzibar decide per la scissione dalla Federcalcio della Tanzania e ottiene anche il riconoscimento della Confederazione Calcistica Africana, quella che diciamo organizza le qualificazioni mondiali per la zona africana e la Coppa d'Africa per Nazioni. E a quel punto decide di provare a rendersi ulteriormente dipendente e inoltre una richiesta di affiliazione alla FIFA. Questo avviene nel 2005, il massimo organo calcistico mondiale però rigetta questa richiesta, semplicemente dicendo che Zanzibar non è uno stato riconosciuto dalla comunità internazionale, non ha una propria sovranità nazionale. E stessa cosa avviene nel 2011, quando Zanzibar inoltre una seconda richiesta, anche se nel frattempo è tornato diciamo alla casa madre non senza qualche mal di pancia, ma anche in questo caso la richiesta è stata rigettata dalla FIFA. Quindi per il momento non se ne fa di niente, insomma Zanzibar rimane ancora diciamo sotto il controllo della Tanzania, anche se qui c'è da fare una piccolissima distinzione, nel senso che le squadre di calcio, i club di Zanzibar possono partecipare autonomamente come rappresentative di Zanzibar alla Champions League africana, per intenderci, mentre invece la nazionale di calcio di Zanzibar non è ammessa a delle competizioni ufficiali. Quindi c'è una sorta di federalismo del pallone che permette di far convivere queste due istanze, insomma. Sì, di fatto sì, però come ho appena detto, purtroppo solo a livello di club, perché invece la nazionale di calcio può fare solamente delle competizioni internazionali dove partecipano squadre di nazionali che però non sono riconosciute dall'ONU, quantomeno dalla FIFA. Ecco, da questo punto di vista qualche soddisfazione non è mancata, se non sbaglio, giusto? No, no, assolutamente, anzi i trionfi principali di Zanzibar sono tutti concentrati negli ultimi 30 anni, perché 20-30 anni, perché ad esempio nel 1995 Zanzibar ha vinto la CECAFA Challenge Cup, che è una competizione riservata alle nazioni dell'Africa centro orientale, che tra l'altro, diamo anche così una notizia, la sua edizione 2015 si disputerà tra poco più di un mese, dal 21 di novembre al 6 di dicembre in Etiopia, e Zanzibar sarà naturalmente lì a partecipare. E poi la stessa Zanzibar è arrivata in finale o in semifinale a quei mondiali di nazioni che non vengono riconosciute dalla FIFA, per quale ad esempio abbiamo Cipro del Nord, abbiamo la Padania e abbiamo tantissime altre realtà. Ebbene, Zanzibar è arrivata seconda alla FIFA Wild Cup in Germania, insomma sembra quasi uno scherzo, no? Che sia stato nello stesso anno del mondiale, quello vero, in Germania, vinto dagli azzurri. E poi nel 2012 in Kurdistan si è disputata la Viva World Cup, e in questo caso Zanzibar è arrivata terza, vincendo contro la Provenza la finale di consolazione. Beh, insomma, quindi niente male. Ti chiedo rapidissimamente quali sono i giocatori più noti nella storia di questo calcio così lontano da noi. Ma ascolta, ci sono tre personaggi che poi in realtà riassumono un po' tutta la vicenda del calcio a Zanzibar, e sono Nadir Arub, un difensore che per le sue grandi doti è stato soprannominato Cannavaro. Poi abbiamo Agri Morris e Kamis Mcha Kamis, che oltre a essere i giocatori più di talento della nazionale sono anche quelli che, come stavo dicendo, riassumono un po' tutta la vicenda, perché sono stati convocati sia con la nazionale di calcio di Zanzibar ma anche con quella della Tanzania, quindi sono un po' come Xavi e Iniesta, che hanno giocato sia con la nazionale spagnola che anche con quella della Catalogna, no? Volendo fare un paragone un pochino più ardito. Eh sì, paragone arditissimo direi. In chiusura, Simone Pierotti, ti chiedo qual è la lezione che arriva da questa esperienza? Io direi la lezione più importante che arriva da questa storia è il fatto che molto spesso lo sport anticipa, no? Se vogliamo, i tempi della politica. Ad esempio il torneo internazionale di calcio giovanile di Viareggio molto spesso ha anticipato in qualche modo i tempi e i modi. Mi pare di quella, ad esempio, nel 2002 fu la prima edizione dopo gli attentati di Torri Gemelle. Ebbene, a quella edizione partecipava una squadra di New York, una squadra israeliana, una rappresentativa palestinese. Quindi anche oltre al di là dell'aspetto meramente sportivo, anche quello di promuovere la pace e la fratellanza fra i popoli. Intanto complimenti per il bel riconoscimento ottenuto ad Overtime, e grazie a Simone Pierotti per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie dell'invito che ho ben accolto volentieri, perché nella città dello sport ci si sente sempre a casa. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.